Tempo di sport con Carlo Genta. Quiz, gratte vinci, toto calcio, toto gol, toto nero, toto tutto. Magari non mangiamo, ma scommettiamo. Buon pomeriggio a tutti. Franco Piantanelli in redazione, Mauro De Angeli in regia. Notizia dell'ultima ora, delle 13.58, anche la Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un'inchiesta sul calcio scommesse. L'indagine, secondo quanto si è appreso in ambienti giudiziari, è stata avviata di recente per l'ipotesi di reato di frode sportiva. Il fascicolo, coordinato dal procuratore aggiunto Gianni Melillo, è affidato al pool di magistrati che si occupano da oltre un anno di reati da stadio. Seguono i nomi dei magistrati. Invece il nome e la penna illuminata con cui parliamo oggi è quella di Maurizio Crosetti di Repubblica. Ciao Maurizio, grazie. Buongiorno a voi, ciao. Volevo farti una domanda. Se non ci fossero signori Doni e Bettarini, non sarebbe forse questo uno scandalo di Serie B e non saremmo forse un po' meno scioccati di come siamo? Ma ce ne saremmo accorti forse un po' in ritardo e lo riterremmo meno importante perché non ci sarebbero i nomi altisonanti, però poi andando a leggere le intercettazioni e considerando il numero di città, di squadre, di personaggi loschi coinvolti, beh, insomma, saremmo, io credo, avviliti lo stesso. Poi certo è vero che i nomi grossi ingrandiscono anche i titoli dei giornali, però insomma è uno scandalo talmente triste, radicato, e ripeto, vasto, che insomma lo è anche a prescindere, insomma, da Doni, signori e compagnia. Secondo la tua sensazione, quali sono i confini di questa storia che io non riesco a vedere? Beh, la sensazione del primo momento è stata quella che ci sarebbe stato altro, ci sarebbero state più sorprese, che non poteva non essere coinvolta anche la Serie A. Era una previsione abbastanza facile, più che una sensazione. Mi pare che le inchieste e gli interrogatori lo stiano confermando. Poi certo è facile anche millantare in questi casi. Bravissimo. Detto, occorre cautela, poi per carità non bisogna sovrapporci mai ai giudici, perché quello è un altro mestiere, come troppo spesso si dimentica in Italia. Però certamente, come si fa a non pensare che questa cosa sia così, così grossa, così contorta, così sommersa, così ingarbugliata, e che non sia solo una storia di balordi. Pare ci sia di mezzo la criminalità organizzata a livelli proprio di, sì, di camorra, di mafia, di riciclaggio di denaro. Certo. Porco, insomma. E lì si passerebbe al piano di sopra. In quel caso si passerebbe certamente al piano di sopra. Sì, anche se tra i due piani mancano ancora troppe scale, nel senso che non posso pensare che il portiere balordo con i debiti, che si prende il bancomat della moglie, per il sonnifero e quant'altro, poi possa essere uno di quelli che si mette in contatto con i giocatori di Serie A, con i dirigenti di Serie A. Temo che tra questi due piani ci siano ancora scale, sì, al momento invisibili, scale di cristallo, però certo, ho l'impressione che verranno fuori queste scale. Certo, ma è la stessa sensazione che ho io, cioè a me questa sembra una storia di quattro balordi. Quanto questa storia di quattro balordi sia collegata al piano di sopra ancora non lo sappiamo, non so se, come e quando lo scopriremo. Questa l'impressione che ho io. È chiaro, Maurizio, tu hai usato una parola chiave, che è quella di millanteria. Sarà un'altra settimana di streghe, di illazioni, di lettere anonime, di calunnie e appunto di intercettazioni non si sa quanto veritiere, perché la millanteria è chiave in una vicenda come questa. Ah, io conosco quello, io conosco quell'altro, mi hanno detto che il presidente ha pagato quelli. Ci sono mille di queste vicende. Io credo che sia la chiave anche per arraffare i soldi per scommettere, quello di millantare credito. Sì, questo senz'altro. Diciamo che però ci si insospettisce quando anche due o tre presunti millantatori millantano tutti di conoscere Pinco Pallo, ecco, per non dire Doni o qualcun altro. Cioè, alla fine, quando i 5-6 millantano sempre il tuo nome, allora forse un magistrato dice: guarda un po', perché non dicono che conoscono, sì, che so, Ibrahimovic o Ozoff, insomma, se tutti quanti tirano fuori quei nomi, probabilmente quei nomi qualcosa a che fare l'hanno. È chiaro che però ha ragione Doni nella sua difesa oggi, questa mattina, anche su Repubblica, non solo lui dice fuori le prove, ed è giusto questo, però io credo che le procure, se mandano insomma le persone ad arrestare, a fermare o anche soltanto le invitano a comparire, immagino che abbiano qualcosa in mano in più che le millanterie. Sì. Poi vedi già i tre patiboli, no? Il rogo dell'opinione pubblica che brucia già, quello della giustizia sportiva che fatalmente si accenderà presto e con quello che ha in mano, e quello della giustizia ordinaria che raccoglie legna, ma in fondo è paradossalmente quasi come sempre il meno importante. Sì, oddio, sulla giustizia sportiva non è mai troppo presto, nel senso che dormono talmente tanto all'ufficio indagini che se anche un giorno o l'altro si svegliassero prima del magistrato ordinario, tutto non sarebbe male. Poi Coni, Carraro e Abete fanno le riunioni la domenica mattina, invece di prendere i pasticcini e comprare le paste per il pranzo della domenica, andare alla Santa Messa, fanno la riunione alle 9 di mattina, e questo è grottesco. Quando un sacco di segnalazioni erano arrivate, flussi anomali di scommesse, anche la storia della Cremonese pare proprio che lo sapessero nelle alte sfere dello sport italiano, e se ne sono ben guardati, perché ha sempre paura, no, di toccare con la manina la pozzanghera e poi rimanere un po' sporchi. E quindi sulla giustizia sportiva stendiamo un pietoso velo, e su quella ordinaria e sulle indagini, beh, insomma, ripeto, sarebbe una buona regola per una volta non sovrapporsi ai giudici, non fare noi né accendere il rogo né dire che sono di destra, di sinistra, di centro, che non capiscono che lo sport è pulito, cioè lasciamoli lavorare. Facciamo il nostro mestiere di giornalisti, chiaramente, quindi cerchiamo le notizie, cerchiamo di raccontare questa storia così, così inspiegabile, o forse troppo facilmente spiegabile, a chi ci legge, a chi ci ascolta. La responsabilità oggettiva io credo che sia in valore assoluto un mostro giuridico, ma in questo caso l'applicazione non sarebbe poi così sbagliata, perché tu facevi riferimento alla giustizia sportiva, però adesso, sai, vengono fuori quelli che dicono ma lo sapevamo tutti, no? C'erano centinaia di scommettitori in Italia che sapevano che la tal partita era zottata. Io dico, possibile che la società non... una società che può essere coinvolta in queste voci non abbia i mezzi per intervenire? Beh, il mezzo che ha per intervenire è sicuramente la denuncia istantanea, immediata, anche soltanto la denuncia di strani movimenti, non è che occorra denunciare un proprio tesserato ritenendolo colpevole, ma tutte le anomalie e le stranezze andrebbero segnalate. Purtroppo questo è un mondo di grandi omertà, è difficile avere il coraggio di fare una mossa che poi potrebbe diventare un boomerang, però omettere significa essere complici. Quindi la responsabilità oggettiva può diventare anche responsabilità diretta, e credo che questo può essere uno degli sviluppi del processo. Maurizio, voglio una tua riflessione ancora su questo, cioè sulla comicità di alcuni episodi, perché anche in queste vicende ci preoccupano e ci scioccano un po', cioè almeno personalmente trovo da ridere, come quando sento Giorgio Buffone dire «Ah, lo facevo, sì, ma per salvare il mio Ravenna». Dietro questa battuta comica c'è la verità, che 127 club professionistici sono una follia. Eh sì, perché ci sono troppe partite, ma è una follia anche questo meccanismo che permette ormai di scommettere anche sul colore delle mutande dell'arbitro. Alla fine, se tu puoi scommettere sul numero di gol, sui minuti in cui vengono segnati, sul numero di gol nel primo tempo, nel secondo, over, under, allora è chiaro che dai più possibilità ai truccatori di truccare più piani, più elementi, no, nella gara, che non il caro e vecchio risultato secco della schedina. E quindi forse bisognerebbe tornare a disegnare delle scommesse. Per me non bisogna proprio scommettere, però so che tanti, e tra l'altro anche tanti miei colleghi hanno la malattia delle scommesse legali, per carità, però è legale anche scommettere il videopoker nei bar, io però non per fare moralismi facili, ma solo per esprimere una sensazione umana, no, epidermica, che quando entro a prendere un caffè vedo i vecchietti o le signore attaccati al videopoker. Penso che questa è una società che soffre. O al Gratta Vinci. È una società, sì, quando vado a prendere il francobollo e c'è la coda per il Gratta Vinci, ripeto, non per giudicare, però sento un grosso disagio, che credo sia poi quel, come dire, il terreno di coltura anche di questo scandalo, no? Cioè alla fine siamo una società molto malmessa se si aggrappa a queste cose, una povera società, è una società che spesso trucca. Maurizio, ti ringrazio. Buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Buon lavoro, un abbraccio. Grazie a Maurizio Crosetti. Sì, la fila, vai a comprare francobollo, le sigarette, devi fare la fila perché c'è chi va lì e non riesce a staccarsi dai Grad De Vinci. Non so se questa sia la base di tutto quanto, però un fondamento c'è di sicuro. Voglio cominciare a parlare con gli ascoltatori subito dopo il traffico. 800 24 00 24 è il numero verde, vi aspetto. Calcio italiano rischia di perdere la reputazione, dice Maurizio Beretta, presidente ancora per il momento della dimissionario uscente della Lega di Serie A. Sì, caro presidente, quel che resta magari della reputazione, anche se insomma la colata di demagogia a cui ci sottoponiamo in momenti come questo in alcuni casi è quasi insopportabile. Leggevo anche un'intervista di oggi su Corriere della Sera, Gianni Rivera, che dice una cosa che condivido, non le condivido tutte, ma questa sì. Il momento, ad esempio, non condivido, noi cercavamo di essere un esempio, questi ragazzi sono solo degli arraffoni. Lui certamente lo è stato, come calciatore in campo fuori, come personaggio tout court, Gianni Rivera. Magari un po' meno potevano essere un esempio quelli che giocavano con lui e che un anno dopo la sua uscita dal calcio sono finiti in manette nel 1980, e lo ricordiamo bene. Quindi non si può dire allora tutti bravi e santi oggi, tutti bastardi senza patria. Dice Rivera, e qui condivido, il momento del ritiro per un calciatore equivale all'attraversamento della linea d'ombra. Ne ho conosciuti di colleghi che si sono trovati male nella nuova vita e magari hanno fatto stupidate. A me sembra che questo scandalo dimostri da parte di giocatori ancora in attività la voglia di arraffare il più possibile da una tavola che per loro sarà imbandita ancora per poco. La sensazione che ho io e che continuo ad avere e a ripetere è che questa sia al momento una storia di quattro balordi. Poi quali collegamenti ci siano tra questa storia di quattro balordi che avvelenano le borracce, che provano a truccare partite di terza serie, di seconda, vediamo, e aspettiamo le prove, aspettiamo i nuovi interrogatori. Beh, questa mi sembra una storia di quattro balordi. Poi capiremo se ci sono collegamenti, se quelle scale di cristallo cui faceva riferimento Maurizio Crosetti esistono. Gianni da Rimini, Angelo da Milano, Bruno da Genova, 800 24 00 24, numero verde. Gianni, buongiorno. Buongiorno, salve, complimenti per la trasmissione. No, grazie. Innanzitutto, rimanendo alle notizie che abbiamo, come ha detto lei, perché non è che possiamo pensare ad altro rispetto a quello che potrebbe, che è effettivamente al momento. Io credo che fondamentalmente il problema principale del calcio italiano in questo senso qui è che continua a non far conto col fatto che il sistema professionistico è sproporzionato per quelle che sono le reali possibilità attuali. E dietro questo poi c'è tutto, calciatori che non sono formati, che a 13 anni sono dei fenomeni e poi vengono sopravvalutati, una miriade di dirigenti che si improvvisano tali, e a tutto questo la federazione non ha mai cercato di mettere veramente freno. Solo adesso si paventa una riforma dei campionati professionisti con la riduzione delle squadre, ma questo andava fatto anni fa. Sì, e da qui a quando la faranno, chissà quanto passa. È chiaro, questo è evidente, no Gianni? Non so se ha sentito il programma di ieri, abbiamo mandato un'intervista ad uno dei PM che sta indagando su Calciopoli, che spiegava che in questo sistema si annidano, in questo sistema così allargato, si annidano le maggiori insidie, no? Campionati lunghissimi, ogni cosa, ogni partita può essere aggiustata prima o dopo, squadre in difficoltà, squadre che partono ma si sa già che non arrivano, e quindi è un sistema che si presta a mille manipolazioni. D'altra parte non sarà un caso se ad esempio in Francia, in Inghilterra, le squadre professionistiche sono una quarantina, da noi sono 127. È evidente che adesso siamo qui tutti a dirlo, da qui a farlo passerà ancora chissà quanto, però è evidente che questo è una delle chiavi del problema. Non dobbiamo però dimenticare come questo sia un problema che non è che c'è solo a casa nostra, che abbiamo noi che siamo dei mascalzoni e degli arruffoni e degli arraffoni, come dice Rivera. Non esiste solo da noi, ma è la principale preoccupazione del calcio a livello mondiale. Poi è vero che a livello mondiale il calcio è guidato dall'imperatore che ben conoscete, che la settimana scorsa è stato rieletto dopo che l'unico competitor è stato fatto fuori, perché guarda caso aveva preso o dato delle mazzette per quella storia ancora non ben chiarita. Sappiamo anche come le centrali di tanto in tanto arrivano notizie, quasi non ci si fa caso, le centrali del gioco d'azzardo asiatiche sono sempre in movimento, incidono su partite, ovviamente non su partite sotto gli occhi di tutti, ma sulle partite ai confini dell'impero, sulle coppe nazionali finlandesi, sulle amichevoli internazionali più improbabili. Quindi il problema del calcio adulterato esiste, ma non esiste solo qui con Paoloni che avvelena le borracce. Vincenzo da Mantova, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io volevo farle una domanda che riguarda in parte l'argomento che state dibattendo oggi e in parte altro, lo sport in generale. Io vorrei sapere qual è il palinsesto della giornata odierna di trasmissione e quello dei giorni futuri, visto che il campionato di calcio è finito. Sì. Tra sabato e domenica sono successe parecchie cose interessanti. Mm-hmm. E volevo sapere se tipo? L'intenzione è quella parecchi avvenimenti sportivi, lei dovrebbe saperlo meglio di me. No, ma lei, ma senza, Vincenzo, senza fare dei sottintesi, finale di Roland Garros, i playoff di basket, il moto mondiale, ne abbiamo parlato ieri due giorni, senza fare dei sottintesi perché non è il caso, secondo me. Quindi, se vogliamo, è chiaro che questa trasmissione è a schema libero, io introduco un argomento e poi ognuno, come in ogni happening radiofonico divertente, interviene sul tema che vuole. Io voglio parlare più tardi anche di calciomercato, abbiamo un appuntamento con Pierluigi Marzorati per parlare di Cantù che torna in finale dopo 30 anni, il Roland Garros, abbiamo visto la finale ieri, ne abbiamo parlato, abbiamo sentito Barazzutti, la Schiavone eccetera eccetera, quindi senza fare troppi sottintesi vale l'invito a tutti gli ascoltatori a intervenire e a parlare di quello che vogliono, perché a me fa solo piacere, non è che mi diverta poi particolarmente a infilare le mani fino al gomito una spazzatura di questi giorni. Mi pare però che sia cronaca e che sia anche un argomento di discreto interesse. Se vi interessa dell'altro, sono qui. Bruno, Genova, buonasera. Buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Senta, la mia è una domanda che c'entra e non c'entra con questo fatto. Allora, io mi stavo chiedendo se con la nuova legge che metteranno sulle intercettazioni, una faccenda come questa sarebbe potuta uscire. In relazione alle nuove normative che prevedono le intercettazioni forse per reati più gravi. Quindi se con la nuova normativa una faccenda del genere non sarebbe stata di dominio pubblico, cioè i magistrati non avrebbero potuto indagare, mi chiedo, ma questa nuova regola sulle intercettazioni va bene o va male? E un piccolo inciso, io in relazione alle accettazioni. Bruno, questa è una domanda molto tecnica. È una domanda molto tecnica che entra su un terreno molto diverso, molto più profondo e anche, se mi permette, molto più importante. Ma risulta che queste intercettazioni siano state utilizzabili, siano divenute utilizzabili perché il reato configurato era quello di quell'avvelenamento delle borracce di cui sappiamo, no? E da quel punto di vista si era, sembra se non sbaglio, configurato il reato di attentato alla salute pubblica, che poi non, di fatto, secondo gli avvocati difensori, non era configurabile. Attentato alla salute pubblica c'è. Salute pubblica, vediamo. Non le potevano essere prese, però in relazione alle scommesse forse non avrebbero potuto utilizzare. Non lo so come funziona. Sì. Come potrà funzionare o meno, ecco, era una domanda che mi ponevo. Sì. Io con le intercettazioni sono favorevole, nel senso che sono stato intercettato e lì i magistrati alla polizia hanno visto che io non c'entravo assolutamente niente nella faccenda in cui ero non implicato, ma ho telefonato. Ma vede, il problema è che l'intercettazione è un mezzo di indagine, così dovrebbe essere. Da noi molto spesso l'intercettazione, la divulgazione dell'intercettazione diventa una sentenza di condanne. Per questo parlavo prima dei roghi dell'opinione pubblica che già bruciano, che già sono accesi ma da una settimana. Purtroppo è una distorsione cui siamo abituati. Dobbiamo fermarci per la borsa, dopo torniamo e parliamo per la gioia di dell'ascoltatore di Mantova e di Vincenzo, mi suggerisco la regia di Mantova e di altri, immagino, sempre di calcio, ma magari di argomenti più ameni, con il vostro permesso, se volete intervenite, parlate di quello che volete. E poi voglio parlare anche di Cantù che torna in finale 30 anni dopo. Molti gli ascoltatori e molti messaggi. Ascoltatori all'800 24 0024, messaggi al 349 238 6666. Come questo: scusa Carlo, ma uno che per fare quattro soldi avvelena un compagno di squadra col sonnifero e gli provoca un incidente stradale che per poco non lo ammazza, non è un balordo ma è un criminale. Chiaro che è un balordo criminale, come tale penso che se tutto verrà dimostrato sarà punito. Questo è evidente, ho usato la parola balordi, ieri ne ho usate le altre anche meno eleganti e me ne scuso, ma ogni tanto scappano. Luciano da Pescara, poi vi faccio sentire delle altre cose. Buongiorno Luciano. Buongiorno a te. Dimmi. Ringrazio perché mi si sia permesso di poter partecipare. Ci mancherebbe. Non dobbiamo meravigliarci del fatto che si arrivi a questo. E chi si meraviglia? Di avvelenare un compagno. Beh. Gente si meraviglia, ma purtroppo la realtà è questa. Siamo arrivati alla canna del gas, alla cosiddetta canna del gas. E qui da noi si usa dire, penso che mi sia permesso, anche perché lo dico in maniera molto velata, che l'occasione fa le persone o ladre, o forse riferendosi alla donna, c'era un detto diverso che non tu capisci, ma non dico. Sì. Quando c'è la possibilità di fare un qualcosa, di cercare di arraffare, tutti pensano che siano loro i più bravi. Questo è il caso di tutta questa gente qui che non è nemmeno, più e nemmeno si nasconde perché gioca coi telefoni ben sapendo che insomma c'è il rischio intercettazione esiste, ben sapendo, nonostante sapendo questo continua a giocare coi telefoni in maniera abbastanza scoperta. Sbagliato è questo, lo sbagliato è perché ci sono tanti modi di poter operare, no? Che questo è sbagliato di principio, no? Non si fanno queste ma cose. Cosa fai parte di un compito, fai parte di un mondo che ti dà tutto, anche essendo un giocatore di interregionale, un giocatore di semiprofessionista, tu sei a livello molto più alto di una qualsiasi persona che la mattina deve svangare per arrivare a fine mese. No, ma su questo siamo tutti d'accordo, insomma, sono perdonami, con tutto rispetto, sono discorsi un po' demagogici che possiamo continuare a fare all'infinito, e questi sono ricchi che bisogna avevano di vendersi le partite, e siamo alla deriva, e siamo un paese di corrotto, come diceva ieri un ascoltatore di Bologna. Questo sì, non dimentichiamo che problemi di questo tipo sono la principale preoccupazione anche al massimo livello del calcio mondiale, quindi non è noi italiani balordi come i quattro di qui sopra, noi italiani balordi sì, va bene, però anche altrove e ad un piano ben più alto ci sono problemi di questo tipo che vanno dal riciclaggio di denaro sporco e ad altri livelli, ad altri piani, quindi questo sì, noi malati, ma anche gli altri non stanno benissimo. A proposito di salute, vorrei parlarvi del malanno di stagione per i calciatori. Posso fare qualcosa per lei? Questo figlio che andrà sarà potre in tuo stomaco. Mi scusi, che cosa ha detto il signore? Se ho quello in tuo stomaco. Signorina? Io ho capito cosa hanno detto. Oh, grazie. E quel signore dice che ha un forte mal di stomaco. Vuol sapere se lei può aiutarlo. Oh, certo. Per favore, gli dica di star tranquillo. Io tornerò appena possibile con delle medicine. Dall'aereo più pazzo del mondo, il malanno di stagione è del calciatore, è ovviamente il mal di pancia. Carlo Pallavicino, procuratore importante, di nomi importanti, è nostro amico. Ciao Carlo. Ciao, buongiorno. C'è qualcuno dei tuoi assistiti che ha mal di pancia? Mal di pancia, diciamo che chiaramente in questi momenti un po' di ansia per il futuro comincia a farsi largo, però proprio tutto sommato alla Ibra no, però no, direi che tutto sommato riescono a sopravvivere. Senti Carlo, ma sarà un po' più dura per voi adesso con quest'aria andare a battere cassa dai presidenti? Con l'aria delle scommesse? Sì. Ma senti, io continuo a credere che questa vicenda sia comunque una vicenda molto grave e che vada veramente tentata di estirpare con una violenza assoluta e senza nessuna pietà. Però continuo anche a pensare che ci sia tanto, ma tanto di quel millantato credito in questa esperienza che mi ricorda un po' Totò e Peppino, cioè in altre parole Trinca e Cruciani erano veramente due grandi agenti 007. Ma come no? Rispetto a questi. Erano dei califfi assoluti rispetto a questi. Questi mi sembra veramente un po' la banda del buco, però non la voglio sottovalutare, soprattutto perché sono convinto che dietro di questa organizzazione ci sia la malavita, e questo è il problema veramente più serio, perché oggi sai benissimo che nel calcio a tanti livelli le infiltrazioni possono arrivare in tutti i modi, e con la crisi economica, soprattutto nelle serie minori dove non si pagano gli stipendi, ci possono essere troppe tentazioni, che poi non sono tentazioni per ragazzi iniziati, ma sono magari tentazioni per giocatori che hanno stipendi da 30.000 euro e non li pigliano mai. E quello è il problema, capito? No, sicuro si torna all'aberrazione delle 127 squadre professionistiche, Carlo, questo è indubbio, però questo è un piano differente. Noi stiamo parlando della banda del buco allo stato attuale delle cose, e tu hai ragione, ma l'ho detto già molte volte, che la parola chiave in questo ambito è millanteria, perché io credo pochissimo a quanto questi si dicono, no? Mi sembra tutto da dimostrare, compresi coinvolgimenti di società, eccetera. Ma ci sono, nella tua esperienza, storie di questo tipo? Davanti a storie di questo tipo ti sei trovato? Non voglio fare l'inquisitore. Assistevo un calciatore ai tempi della presunta combina Atalanta-Pistoiese, che vide coinvolto tra l'altro proprio Doni. Sì. E quindi fu un'esperienza estremamente intensa, proprio perché io tra l'altro in quell'occasione ebbi l'opportunità di conoscere l'avvocato Buongiorno, che lavorava ancora per Coppi, per Franco Coppi, il legale di Andreotti, e devo dire che fu veramente molto molto brava. Ebbi la percezione clamorosa che quando hai un buon avvocato ti puoi veramente salvare, perché lei fu strepitosa, riuscì a smantellare tutta un'accusa che sembrava abbastanza fondata e fece assolvere i giocatori sia dell'Atlanta che della Pistoiese. Però ecco, quello che mi fece effetto in quella circostanza è che vidi dei calciatori di una certa età piangere, veramente piangere, con le lacrime agli occhi, terrorizzati, si vergognavano, poi magari rivederli dopo un paio d'anni a giro con un atteggiamento un po' spocciosetto del calciatore che comunque la fa sempre franca. Questo mi è rimasto molto impresso di quell'esperienza. Senti, dove va Montolivo? Così passo brutalmente al piano successivo. Ma guarda, per fortuna la segue Giovanni Branchini la vicenda, quindi la chiediamo a lui e stiamo più tranquilli, perché non credo lo sappia neanche Branchini, però in questo istante veramente preferisco non occuparmi, anche certo, perché io sto a Firenze, tra l'altro, quindi tu stai a Firenze. È una vicenda sì, un po' delicata. Lo so. Certo, leggevo il centrocampo della Nazionale dell'altro giorno, se dovesse andare alla Juventus, la Juventus sarebbe il centrocampo della Nazionale, con tutto, è una mia considerazione naturalmente, con tutto lo spernacchiare che si è fatto in questo periodo sul mercato della Juventus, che non so come valuti tu al momento. Ma è sicuramente molto intrigante, però devo anche dire che con l'arrivo di Conte rischia di essere abbastanza sovvertito, perché è ovvio che ci sono dei sospetti sulla possibilità o meno che questi giocatori giochino tutti insieme, e vedere anche con che formula, perché è ovvio che l'arrivo di Pirlo un po' ha modificato gli atteggiamenti, le idee che erano stati forse avanzati e studiati al momento in cui è stato contrattizzato Pirlo. Tornando al mal di pancia, quello di Sneijder invece, malanno di stagione, adesso è venuto a lui, cosa volete fare? Beh, quelli sono i malanni dei ricchi, no? Quando c'hanno questi mal di pancia che improvvisamente sembra che se non cambia squadra diventa motivo esistenziale, no? Voglio dire, ora non so se nel caso di Sneijder, però ecco, quelli sono i mal di pancia così, un po' che fanno un po' rabbia, perché tutto sommato se i giocatori improvvisamente si trovano più bene in una squadra, comunque devono ricordarsi che quella squadra li ha portati in cima all'Europa e al mondo, quindi insomma bisogna pensarci bene prima di lasciare. Sempre c'è un po' questa frenesia, no? A certi livelli, soprattutto a quelli alti, di pensare che l'erba del vicino è sempre più verde, poi vediamo che bene o male troppi giocatori rimpiangono l'Italia. Per chiudere, compreso Kakà. Appunto, oggi c'era, si era sparsa questa voce, come ieri c'era Ibrahimovic al Real, oggi si è sparsa questa voce, scambio Maicon Kakà, e è intervenuto Morata e ha detto tutte balle. Appunto. Meno male, anche se ultimamente anche lui è specialista ogni tanto nel depistare, quindi sì, aspettiamo. Ma anche perché sai, Mourinho, c'è tanti giocatori che gli piacciono dell'Inter, quindi se ci fosse la possibilità di uno scambio lui saprebbe come pescare. E Bomber Lucarelli che fa? E sta valutando la possibilità di giocare un altro anno, perché sinceramente si è convinto di poterlo fare con grande soddisfazione. Tempo fa si trovò insieme al preparatore atletico del Napoli, che lui conosceva ai tempi di Livorno, e gli chiese appassionatamente un parere, disse: come mi vedi? Credi che io posso fare un altro anno oppure è meglio che la smetta? E lui gli disse: ti vedo meglio che ai tempi di Livorno. Non so se era una balla o no, però sta di fatto che l'ha convinto e vuole fare un altro anno in Serie A o eventualmente in una B importante. Altrimenti scrivete un altro libro insieme. No, basta così. Basta così. Abbiamo già dato. Grazie Carlo, è sempre un piacere. A presto. Carlo Pallavicino, questo, ci fermiamo per il traffico, poi Nico da Viterbo che arriva subito dopo. Buongiorno Nico da Viterbo. Quanto rumore, ma abbassi la radio, sennò non la sento. Sì, la spengo. Grazie di avermi dato la possibilità di intervenire. Grazie a lei. Sono un interista, ho letto stamattina della possibile telefonata tra Mourinho e Leonardo sullo scambio Kakà e Maicon. Sapendo che Kakà costa o prende due volte quello che prende Maicon, ma Maicon in questo momento vale tre volte Kakà, e oggi dico. Non lo so se è possibile. Prende due volte, però questo vale tre volte. Mi sembra il fine di Lino Banfi, si ricorda? Prendo un quarto di Maradona e tre quarti di Zico. No, sto scherzando, naturalmente. A me sembra che Kakà, Nico, mi sembra che Kakà sia un po' un giocatore in che Maicon sia in lento declino. Sì, è vero. L'ultimo campionato poi non è che ha dato. Oh, non lo so se è una cosa. Io da interista mi piacerebbe a vedere un pupillo dei milanisti, perché fino ad ora sono stati interisti a andare verso il Milan a accettare. Sì. Anche se non. Cioè, non lo so, io vedo il Maicon meglio di Kakà. Pure di Ibrahimovic, un altro desiderio da interista, la vedo. Insomma, mi piacerebbe che andasse via, andasse al Real. Non so quanto è possibile. No, credo poco. Ma lei lo dice giusto per sadismo, no? Per avere qualche rivalsa nei confronti dei milanisti. Lo dice per questo. Sì, è una soddisfazione da tipo. Sì, ci sta. Sì, aver sentito anche Ibra che vuole rimanere, però non so. Sì, no, ma io credo che Ibrahimovic resti al Milan, almeno così dicevano. Diceva ieri Carlo Laudisa, che è certamente ben informato, quindi sia una balla, per dirla alla Moratti, ma credo sia una balla anche questa dello scambio tra Kakà e Maicon. Poi dire preferisco Kakà, preferisco Maicon, mi sembrano siano due cose abbastanza differenti, no? Al di là del fatto che Kakà ha avuto un sacco di problemi, soprattutto fisici, e che Maicon da un paio di stagioni, se non tre, è un giocatore sempre eccellente ma in lento declino. Danilo da Schio, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. No, sono Carlo Genta, ma è uguale. Ah, ok, ho appena acceso la radio, mi scusi. Sì. Compito mio, tenervi compagnia quest'estate, tutti i giorni, dalle 2 alle 3. Benissimo, le seguirò volentieri anche lei, certamente. Senta, volevo chiederle, voi del calcio scommesse. Il presidente della Federcalcio, dopo tutto quello che sta succedendo, cioè, considerando che è 50 anni che è seduto sulle più svariate poltrone, che era vicepresidente ai tempi di Calciopoli con Carraro, non sente il dovere morale di andarsene, di dimettersi? Come ha detto, dovere? Il dovere morale di dimettersi. Cioè, non si sente politicamente, fra virgolette, responsabile di quello che sta succedendo, quantomeno per omesso controllo, chiaramente nessuno insinua che sia coinvolto, quantomeno per omesso controllo. Cioè, è veramente emblematico di come va l'Italia. Ci sono sempre le stesse persone ai soliti posti che non sono mai responsabili di nulla. E quindi le chiedo io, lei ha ragione su questo, io condivido. Lei ritiene che potremo mai vedere uno che per dovere morale dice mi alzo dalla poltrona e vado via? Uno di questi? Che lo fa esclusivamente per dovere morale? Crede che lo vedremo? No, evidentemente. Quindi, quindi la sua domanda è retorica in questo senso? La mia domanda è retorica, qualcun altro dovrebbe. Cioè, bisognerebbe che ci fosse una sollevazione fra gli addetti ai lavori, fra il pubblico, fra i tifosi. Cioè, non si può continuare sempre con le stesse facce, sempre con le stesse persone, sempre con gli stessi problemi e non vedere mai colpita una responsabilità a livello, certo, a livello alto. Danilo, la ringrazio e restano nell'ambito delle domande condivisibili ma retoriche. Vi faccio sentire un'altra cosa. È Bariviera che si attarda nella rimessa, quindi Marzorati, e con questo pallone la Squib espugna il campo di Milano e con il punteggio di 85 a 84 dopo due tempi supplementari la Squib è la seconda finalista, quindi nella finale per lo scudetto Sinudine, Squib saranno le due squadre che si affronteranno per conquistare lo scudetto. E l'altra sera nella sala stampa di Cantù al termine di gara 2 Cos Peterson diceva: lo vedete là quel maledetto Marzorati, quante volte me l'ha fatta pagare. Era vicino a me. Ingegnere. Sì. Ciao Pierluigi. Ciao. Ti ho visto esultare non poco ieri sera nel parterre. Sicuramente direi che fondamentalmente questa squadra sono due anni che dà emozioni, no? Per come gioca, per come lotta. E quindi credo che sia stato un accumulo di tensioni che si sono trasformate in gioia nel momento in cui siamo riusciti a andare in finale battendo una grossa squadra, perché insomma non è che è il solito discorso, no? di elogiare chi è stato battuto, però l'abbiamo sempre detto, Armani è una grossa squadra di grossi giocatori, fortunatamente per noi non sono riusciti ancora a trovare il bandolo della matassa di giocare di squadra, se non ecco nella partita 3, quando secondo me noi non l'abbiamo giocato, ma credo in modo abbastanza comprensibile, perché sì, venivamo da 4 vittorie con Varese, 2 vittorie con Milano, e siccome non siamo l'armata invincibile, ma siamo una buona squadra che gioca molto bene insieme con un bravo allenatore, ci poteva stare insomma che una sconfitta, un calo di tensione, di energia, un rilassamento, certo, ci potesse stare. Mi sembra che ieri la squadra ha dimostrato di esserci ancora, di avere ancora energia e di aver meritatamente passato il turno. Certo, però non possiamo più, Pierlo, considerare Cantù una piccola squadra. Tu parli di Milano, grande squadra, ma a questo punto anche Cantù è una grande squadra che farà l'Eurolega. Dove, in quale impianto, lo scopriremo vivendo, e come lo scopriremo vivendo, anche se Anna Cremasco ieri sera ha detto ci attrezzeremo per farlo. Ma Cantù non è più una piccola squadra, questa finale, scudetto, 30 anni dopo ci arriva quasi come logica conseguenza della stagione passata, della regular season e di questi playoff. Ma io non ho detto che è una piccola squadra Cantù, no? Cioè, uh-huh, che siamo maggiormente vaccinati di prenderci le nostre responsabilità, dico, riconfermo, Milano e Siena sono due grandi squadre che hanno un budget sicuramente molto superiore a Cantù, no? Poi che il fatto che Cantù ci sia infilato dentro tra queste due e meritatamente va a giocare la finale, sicuramente voglio dire è un onore e sarà anche un carico di responsabilità, compreso il discorso dell'impianto e quello che verrà, però io direi che cominciamo a goderci questa qualificazione, questa finale che è la conseguenza di un lavoro fatto in due anni su una società molto ben organizzata, che ha le idee chiare, che si muove con molto raziocinio, non avendo dei grandi budget, però mi sembra che già si è già provveduto a rinnovare, a prolungare il contratto con Lune, con Mizzo, con Marco Svili, probabilmente con Mazzarino, per cui per tenere ancora l'ossatura della squadra, perché se effettivamente, secondo me, l'idea nuova, il messaggio nuovo di questa società è che il momento del dopo Bosman non si può più pensare a breve alla costruzione, ahimè, di vivai di settore giovanile, ciò che la società comunque sta facendo unitamente anche alla società, ma trovare questo discorso di creare una continuità, e direi che bisogna riconoscere Siena ha preceduto tutti in questo discorso, cioè tenere il blocco, rinnovarlo inserendo nuovi giocatori o rinnovando più approfonditamente come ha fatto quest'anno, però tenendo sempre il livello della squadra molto alto. Assolutamente, questa è la lezione di Siena, e Cantù è l'unica che la sta replicando e ripetendo, tanto che questa finale è quanto di meno sorprendente ci potesse essere. Pierluigi, io ti ringrazio, ci sentiamo a giochi in corso magari. Perfetto, buon lavoro anche a voi. Grazie. Tutti gli ascoltatori. Grazie a Pierluigi Marzorati, con cui chiudiamo la puntata di oggi, sempre disposti ad allargare i discorsi fino ai confini che volete nei prossimi giorni. Ci sentiamo domani alle 14. Grazie a Franco Piantanelli in redazione, a Mauro De Angeli in regia. Buona giornata.